La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici da Franco D'Assisi, ben ritrovati alla Rosa Purpura, all'ora di cinema settimanale qui su Radio 24. I tamburi dell'Oscar cominciano a rullare, sarà un febbraio quello che si apre proprio con questo fine settimana cinematografico che farà da pista di lancio, da rampa di lancio ai film che poi si contenderanno la statuetta. Questa è forse l'ultima settimana, fra virgolette, normale per quanto riguarda il numero e la qualità delle uscite, qualità intesa come caratteristiche di partecipazione appunto agli Oscar, magari appunto di nomination. Poi dalla settimana prossima sarà davvero un'orda di film che si abbatteranno settimana per settimana nei nostri cinema. Ancora questa settimana invece si riesce a fare un attimo di selezione, 4 le nuove pellicole in sala, di 3 di queste noi vi daremo spunto e commento puntuale, e ancora una settimana che vedrà la commedia italiana sugli allori, come sta succedendo ormai da qualche mese a questa parte. Sentiamo i titoli di testa. Arriva il secondo capitolo della saga della lotta fra i sessi con femmine contro maschi. Nel film maggiore spazio ai personaggi secondari del primo episodio. Nei cinema Another Year, il nuovo lavoro di Mike League, un film toccante ed emozionante che racconta la storia di una famiglia sconvolta da un dramma improvviso. Il regista messicano Alejandro González Iñárritu torna sul grande schermo con Beautiful, con uno straordinario Javier Bardem nei panni di un padre malato e devoto ai propri figli. Moda e cinema di nuovo a braccetto, in una commedia in uscita negli Stati Uniti. È From Prada to Nada, storia di due sorelle viziate rimaste improvvisamente orfane del padre e senza un soldo in tasca. Versione in chiave moderna di Ragione e sentimento di Jane Austen. E allora questi erano i titoli, questo era il menu della nostra puntata della Rosa Purpura. Avete sentito già proprio il primo titolo di testa, è stato quello dedicato a Femmine contro maschi. Arriva nelle sale cinematografiche italiane il secondo capitolo di questa doppietta di film, girati contemporaneamente tra l'altro e quindi in maniera programmatica, strutturati sul fatto che chi nel primo film aveva ruoli magari un po' più marginali, quasi dei camei, pensiamo per esempio a Claudio Bisio, tanto per dire uno degli attori, nel secondo film ha il suo personaggio maggiormente sviluppato, ma il film è stato, i due film sono stati assolutamente girati e realizzati in totale contemporanea. E Femmine contro maschi, che è questo secondo capitolo, il primo era maschi contro femmine, arriva in un momento particolarmente favorevole per la commedia italiana, di cui avremo modo fra poco di parlare. Prima facciamoci raccontare il film dalla nostra Barbara Righini. Purtroppo la commozione cerebrale gli ha provocato una grave amnesia. Signora, lei ora è la depositaria del suo passato. È come se dovesse riformattare suo marito. Riformattare? La parola riformattare evoca nella mente di Luciana Littizzetto, che in questo film interpreta Anna, le mille possibilità di adattare il marito ai suoi desideri. È già, perché Anna ha sposato un uomo che non fa per lei, è traditore, adora il calcio, è distratto nei suoi confronti, tutti i difetti che non aveva calcolato sposandolo, e ora, dopo l'incidente, ha la possibilità di piegarlo ai suoi desideri, cedendo alla menzogna. Non è l'unica però a dover accettare una bugia. Paola e Marcello, interpretati da Nancy Brilli e Claudio Bisio, vivono dentro una grande bugia manovrati da una nonna manipolatrice. I due, ex marito e moglie, accettano di fingere di stare ancora insieme solo per non dare un dispiacere alla donna in fin di vita. E poi ci sono Ficarra e Picone, eterni Peter Pan. Entrambi non hanno mai abbandonato il sogno di diventare musicisti e adorano i Beatles, ma le fidanzate non riescono più a sopportare di vivere con uomini ancora bambini. Dai, diamoci un'altra possibilità. Lo diceva anche John Lennon. Give peace a chance. E infatti gli hanno sparato. Ti prego, dai. Io sono cambiato, Valeria. Non sono più quello di una volta. Ho fatto un falò con tutti gli album di figurine, anche quello dei mondiali del 74, che era rarissimo. Cioè, io credo che tutti siamo un po' Peter Pan, che ci sono dei punti, dei momenti, delle cose su cui tutti vogliamo, abbiamo bisogno di essere un po' bambini. Da una parte è anche giusto e bello conservare uno sguardo di ingenuità sulle cose, dall'altra è chiaro che quando questo toglie spazio, senso e dimensione alla responsabilità, alla costruzione di una vita adulta, allora lì diventa un problema. Era Francesca Einaudi in Femmine contro maschi, l'attrice appunto Valeria, fidanzata di Rocco, ovvero Salvo Ficarra. Stare con un uomo cui bisogna fare anche da madre ha le sue controindicazioni. Femmine contro maschi è gemello di Maschi contro femmine, uscito nell'ottobre scorso, e se lì erano gli uomini a combinarne di tutti i colori, qui sono le donne a prendersi la rivincita in quello che pare più uno spin-off piuttosto che un capitolo 2. Ma la lotta fra i sessi è a somma zero. L'inganno cui pare non si possa sfuggire finisce per far male a entrambi e forse, pare dirci Brizzi, sarebbe meglio che le donne accettassero i rispettivi compagni con i loro difetti. Donne isteriche e poco comprensive, uomini traditori, suocere manipolatrici, nulla di nuovo sotto il sole, anche se un cast di attori che funziona riesce comunque a strappare diversi sorrisi. Allora, la nostra Barbara Righini che ci ha raccontato così Femmine contro maschi, qualche rilievo statistico rispetto al primo capitolo. Maschi contro femmine aveva incassato 13 milioni e mezzo nel corso del suo sfruttamento al cinema, il che ne fa il settimo incasso della stagione cinematografica in corso. Tra l'altro, di questi primi sette incassi, ben 5 sono film italiani. Al nono posto c'è un film come Qualunque mente, che è primo in classifica ancora in questa settimana e che sicuramente arriverà a superare questa soglia. Insomma, davvero, dicevamo, l'anno della commedia italiana si conferma di settimana in settimana. E per quanto riguarda appunto il box office dello scorso weekend, al primo posto c'è appunto ancora Antonio Albanese con Qualunque mente, con un totale ormai di 11.3 milioni, davanti a Immaturi, commedia di cui noi avevamo parlato e anche consigliata qui da noi alla Rosa Purpurea, Immaturi di Paolo Genovese, che pur uscendo in un periodo particolarmente gravido di grandi film in termini commerciali, di grandi film italiani, da Zalone a Manfredonia, appunto a tutte queste commedie, è riuscito comunque a trovare un suo pubblico ed è arrivato già, questi sono dati aggiornati a domenica scorsa, quindi sicuramente farà ancora meglio, a 8 milioni e mezzo di incasso e un secondo posto. Terzo posto per Checco Zalone, che ha superato i 40, invece è arrivato a 41 milioni e mezzo di incasso globale. Per trovare il primo film non tricolore nella classifica dobbiamo arrivare al quarto posto con Parto col folle, una uscita del weekend scorso con Robert Downey Jr., 1.4 milioni, e al quinto posto The King's Speech, il discorso del re, che sfiora il milione di euro di incasso. La seconda parte del nostro programma si apre con un film che vogliamo anche qui, in questo caso, sponsorizzare: Another Year, il ritorno di Mike Leigh, uno dei registi più sensibili, apprezzati, capaci di giocare con molti registri del cinema inglese e non solo. Another Year, un film che ha ottenuto tra l'altro la nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura, quindi, come dire, già ci sono le premesse artistiche e di scrittura per un grande lavoro. Il resto appunto lo fanno la regia di Mike Leigh e una strepitosa stirpe di attori come quelli inglesi che popolano anche questo film. Noi riparliamo fra poco con il nostro Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Prima però cominciamo a entrare un po' nel clima con un assaggio del trailer, sentiamo. Non ti spaccare la schiena. Lo so, l'età non aiuta, è un lavoro da giovani questo. Che c'è? Mamma, papà, vi presento Katie. Salve, ciao. Loro sono Tom e Jerry. Salve. Tom e Jerry, incredibile. Ecco, questo è per te, Tom. Ah, Buenos Aires. Sì, perché pensavo... Voi due ci siete stati, tutti e due, siete stati in Argentina. No, veramente no. Non ci siete stati. Mangiare, bere, stare allegri. Non lo so. Non sempre la vita è generosa. Che dobbiamo fare con te allora, eh? Non puoi andare avanti così, questo è sicuro. Finché io e te siamo amiche, allora io sto bene. E allora Boris Sollazzo, un film, questo è Another Year, sulle prospettive della vita che si vede scorrere ed esaurire i suoi tempi attraverso le nostre dita, ma anche sulla fragilità delle relazioni umane. Certo che tutto diventa più facile quando nel cast si ha gente come Jim Broadbent o Leslie Manville, insomma questa grande stirpe, come ho detto, di attori inglesi. Cosa ne dici, Boris? Beh, sono d'accordo, guarda, ti dirò che nonostante Mike Leigh sia forse uno dei migliori registi europei, questo film non sarebbe così apprezzato e così apprezzabile se non ci fosse questo cast incredibile. Qui anche il comprimario più basso, diciamo, quello con meno pose, riesce comunque a darci emozioni molto forti. Anzi, se vogliamo, forse Mike Leigh, volendo fare un paradosso, diventa quasi il punto debole di questo film, con una regia che si nasconde troppo, probabilmente proprio perché ha degli attori così straordinari. Hai citato Jim Broadbent e Ruth Sheen, che sono la coppia Tom e Jerry, c'è una sottile ironia anche nel chiamarli così, e poi appunto l'amica ubriacona di lei, Leslie Manville, che è forse il terzo incomodo che dà la cifra sia comica che malinconica a un film che a mio parere non è del tutto compiuto, ha qualche ripetitività di troppo, che però ci dà veramente delle interpretazioni attoriali tra le più belle che abbiamo visto negli ultimi anni. Ecco, forse il pezzo forte invece di questo film è proprio il tema, è proprio questa capacità di andare a guardare nella seconda parte, nell'autunno della vita di una coppia, ma anche di molti amici che intorno a loro ruotano. È un film senza, se vogliamo, proprio una trama narrativa vera e propria, no? È un film più di situazioni, che racconta più situazioni ed emozioni. Assolutamente, è l'insostenibile leggerezza del matrimonio, di fatto. C'è una coppia anziana che, a dispetto di quello che succede in giro per il mondo, rimane insieme. Sono molto diversi, lui faceva il geologo, lei la psicologa, sono molto complementari, allo stesso tempo hanno tanti amici, hanno un figlio single, vivono un anno vissuto affatto pericolosamente, però con tanti avvenimenti, perché appunto poi quando qualcuno ha un'umanità così pronunciata come la loro, gli succedono tante cose. Quindi c'è il fratello burbero annichilito dal dolore, e c'è appunto il figlio un po' farfallone, che tra l'altro, cosa curiosa, è il più giovane del cast, visto che qui insomma si va tutti verso la seconda o la terza età. Però è un film che riesce a dare episodi di comicità divertentissima, che suscita anche la risata e anche qualche piccolo momento di infelicità molto delicato, molto dolce, molto sensibile. È la vita, non c'è una trama, come hai detto tu, è la vita, sono quattro stagioni, un anno, è Another Year appunto, è un film in quattro atti che racconta la vita, che non necessariamente deve avere sempre una trama, ma deve essere interessante come questa. Ecco, Mike Leigh, tra l'altro, che torna anche un po' dopo questa incursione di Happy Go Lucky, che è stato un film di forte anche tensione, no? Torna un po' più ad ammorbidirsi nei toni del racconto e a raccontare appunto il flusso dei suoi personaggi, più che appunto a stare, come fece secondo me felicemente tra l'altro in Happy Go Lucky, su qualcosa che doveva creare tensione drammatica per lo spettatore. Ecco, devo dire che secondo me Happy Go Lucky ha rappresentato un punto di arrivo e un punto di partenza di Mike Leigh. Noi Mike Leigh eravamo abituati a vederlo fin troppo cupo, fin troppo arrabbiato contro un mondo, un piccolo mondo antico e presente, che ci mostrava drammi assoluti. Happy Go Lucky, come dici tu, crea una tensione drammatica e narrativa molto forte, ma allo stesso tempo mostra il talento di Leigh per una commedia surreale, triste, però pur sempre ci sono, anche grazie a quella straordinaria attrice che è Sally Hawkins, c'erano anche momenti di commedia molto divertenti, penso alle lezioni di Scuola Guida. Qui mi sembra che tutti gli eccessi di Mike Leigh, che pure è un regista molto sobrio, trovino un equilibrio molto saldo, molto solido, in alcuni momenti anche troppo, si rischia forse verso la seconda parte dei momenti di noia, però mi sembra che lui riesca a fare una summa della sua cinematografia, di cui Happy Go Lucky secondo me era una tappa fondamentale e forse non del tutto compresa. E allora andiamo ad ascoltare la voce di Mike Leigh, che così aveva presentato il film alla conferenza stampa della presentazione a Cannes. I suppose life does become at the same time clearer. Penso che la vita sia allo stesso tempo facile e a volte complicata. E penso che in questo contesto il film parli di come noi scendiamo a patti con la vita. di come noi ci relazioniamo l'uno con l'altro e di come lottiamo. Non credo che il film sia una sorta di assoluzione, ma credo che sia più che altro una sorta di rivalutazione per tutti voi e per me compreso. Alla fine il film parla di come facciamo i conti con la vita e di come facciamo i conti con noi stessi, ma anche di tutto ciò che di bello c'è nella vita e di come la celebriamo e di come andiamo avanti. E di fare i conti con se stessi e con la propria vita parla anche un altro film in uscita questa settimana, ne parleremo fra poco, si tratta di Beautiful di Iñárritu. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento alla prossima puntata della Rosa Purpurea. Grazie a te Franco, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, abbiamo parlato di Another Year di Mike Leigh, seconda delle proposte cinematografiche di questo fine settimana. Fra un po' affronteremo il tema invece di Beautiful di Alejandro González Iñárritu. Prima però siamo arrivati alla prima finestra aperta sul nostro DVD Game che ogni settimana vi fa vincere, se siete bravi, preparati e veloci, un Blu-ray o un DVD che dovete indovinare. Quindi tre tracce di un film misterioso che dovete indovinare. Anche questa settimana, dopo l'exploit di due settimane fa con C'era una volta in America, siamo dalle parti del mito, anche se di qualche cosa di molto molto più recente, quindi aguzzate le orecchie, se si può, non lo so, provateci comunque. La Rosa Purpura @radio24.it è l'indirizzo che dovete cominciare a scrivere nella vostra finestra della posta elettronica e andiamo con la prima traccia. Quindi tu mi chiedi di lasciare che qualcun altro ti segua nelle tue fantasie. Beh, insomma, siamo stati parchi in questa prima uscita, siamo stati molto molto moderati, 5 secondi, fantasie, ecco, provateci un po' se avete già capito. La Rosa Purpura, @radio24.it, come sempre inserite anche già il vostro indirizzo di posta ordinaria, perché se siete stati i più bravi e veloci del sabato e della domenica, riceverete a casa poi il DVD, anzi in questo caso il Blu-ray in questione. Più tardi però altre due possibilità. E allora eccoci a questo punto a parlare dell'altra novità in sala di questo fine settimana, Beautiful, scritto proprio così come si pronuncia in italiano, si pronuncia anche in inglese, Beautiful, quindi scritto con la I, perché? Perché il film è un film del regista messicano Alejandro González Iñárritu, un film ambientato in Spagna, a Barcellona, con un attore spagnolo come Javier Bardem, candidato all'Oscar per questa prova, ed è un film che entra nel dramma di una persona e anche di una società che fa i conti appunto con se stessa. Anche in questo caso un estratto dal trailer. A volte il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che cambia sempre direzione. Cambi anche tu direzione, ma la tempesta di sabbia ti segue. Tu cambi di nuovo, ma la tempesta si adatta al tuo passo. Questo si ripete infinite volte, come una danza sinistra con la morte, prima dell'alba. Quella tempesta non è qualcosa arrivato da lontano, qualcosa indipendente da te. Quella tempesta sei tu. E quando la tempesta sarà finita, neanche tu saprai come hai fatto a uscirne vivo. E allora avete sentito, più che un trailer, è un trattato di filosofia, se vogliamo, questo, ma è la filosofia di questo uomo, il protagonista di Beautiful, Chabal, interpretato appunto da Javier Bardem, che vede sfuggire la vita dalle proprie mani, un poco di buono, se vogliamo, che vivacchia gestendo il commercio illegale dei Vucum Pra, delle Ramblas di Barcellona, ma è legatissimo ai due figli piccoli, ai quali non riesce però a dare la giusta educazione, anche perché è complice di questa situazione l'assenza di una donna al suo fianco. In realtà una donna ci sarebbe, la moglie Marambra, che però si perde in varie dipendenze, in una malattia mentale neanche troppo accennata, e quindi entra ed esce da quella famiglia come da numerose delle sue disintossicazioni. Un giorno però Chabal riceve una diagnosi letale. Chabal è un uomo malato, un uomo giovane ancora, ma malato in maniera grave, anzi appunto definitiva. Tutto questo lo convincerà a mettere le cose a posto, alla sua maniera se vogliamo, con il ricordo di un padre scomparso troppo presto e cercando di dare ai figli qualcosa, quel poco che può dare, che è denaro, sì certo, ma anche un senso della vita e del destino che stanno per dover affrontare da soli. Il film si muove senza una trama vera, che non sia quella dei movimenti interni dell'anima del protagonista, i suoi sotterfugi, le sue inadeguatezze, la sua voglia di occuparsi comunque e sempre degli altri, che siano appunto i figli, la moglie o i mercanti clandestini di tutto il mondo che lui porta a lavorare sulle strade di Barcellona. Una luce livida, quella che illumina la capitale catalana, che fa da sfondo al film, una Barcellona che sembra più Marsiglia, se vogliamo, lontana dalle suggestioni un po' happy hour suggeriteci dall'industria turistica. E sono scelte stilistiche importanti, che sono parte integrante della poetica del film, quelle della location, che il regista spiega così. Io normalmente, già da quando ero piccolo, volevo andare in posti inesplorati. Era quella la mia intenzione. Avevo questa idea che avrei scoperto qualcosa che nessuno aveva mai visto. Credo che Beautiful sia lontano dal turismo, dall'effetto cartolina, dalle vedute più ovvie di Barcellona. È una città bellissima, ma come per molte altre città europee, ti basta muovere la cinepresa un po' più a destra per trovare un'altra realtà, nei fatti bella come l'altra. È solo stigmatizzata perché nessuno vuole vederla e affrontarla. È una cosa che trovo irritante. Quando sono andato in questo quartiere di Barcellona, ho trovato una comunità varia, incredibile, multietnica, piena di vita e di bellezza. Iñárritu è un regista che usa alla perfezione il mezzo tecnico del cinema, dalla fotografia al sonoro, che è uno dei suoi punti di forza, mettendoli al servizio della tragedia narrata. Questo film è una vera e propria tragedia, anche proprio in senso classico. La musica che lo spettatore sente è la musica dell'anima del protagonista. Ciò nonostante, il film è estremamente duro e pesante, dobbiamo usarla questa parola, ma lo è nel senso del clima che lo permea, anche se il regista messicano invita a guardarlo con occhi diversi. I think the story of Uxbal is like, you know, if you... Questa è una storia sulla vita, non sulla morte. Ma la vita è vista da un'altra angolazione, dal momento della sua fine. Per questo la prospettiva del tragitto è modificata. Credo che quest'uomo triste debba trovare l'amore, un significato per la sua vita attraverso la compassione, il perdono e le cose che deve rimettere insieme prima di andarsene. In un certo senso deve trovare la redenzione combattendo contro la corruzione nella società e dentro se stesso, letteralmente e metaforicamente. Deve cercare una qualche luce in un momento super cupo della sua vita. La regola del gioco era quella. Era quello il genere con cui giocavo. La tragedia. La tragedia parla di quello. Iñárritu si conferma anche un grande narratore di storie. Una volta trovato il coraggio di allontanarsi un po' dagli artifici del montaggio parallelo che avevano reso un po' troppo studiati film come Babel o 21 grammi, e ritrovata la vena diretta e immediata del suo esordio di Amores Perros. Merito anche di un interprete come Javier Bardem, come dicevamo nominato all'Oscar per il miglior attore, che spiega l'importanza di questo film. È importante per lo che parla, è importante perché sono... È importante per quello di cui parla, è importante perché è stata una sfida per me a tutti i livelli. Ed essere in grado di dare vita a questo personaggio è già un successo. La qualità non dipende da me, o meglio, certamente dipende da me perché sono io che lo interpreto. Però non sono io quello che può dire se è buono o cattivo. Ognuno ha i propri gusti. Per me è stato importante portarlo alla luce. La gente tendrà i suoi gusti, però per me sia stato importante il fatto di aver potuto sacarlo adelante. terza parte della Rosa Purpurea. Le novità sono queste, si aggiunge anche per i più piccoli Gulliver in 3D con Jack Black. Questo è il quarto film che completa questa settimana un po' il palinsesto, diciamo così, dei cinema italiani, delle novità al cinema. Adesso noi invece ci occupiamo di rubriche, cominciando con i dispersi, la nostra novità 2011, che ci porta settimana per settimana a cercare di recuperare film che non hanno trovato una distribuzione in Italia, film nuovi, assolutamente anche nuovissimi, presentati ai festival, spesso con grande successo, con grandi attori, grandi registi, che però non sono stati acquistati per l'Italia e distribuiti. Ma insomma, nel mondo globale internet aiuta a recuperarli in DVD in qualche paese del mondo. Oggi la scelta di Alberto Brumana si è fermata sul cinema francese, anzi sul regista francese, anche perché il film in questo caso è un po' più vario per quanto riguarda le provenienze e anche la lingua parlata. Ascoltiamo una clip. Do you take drugs? Drugs? Yeah, do you take drugs? No. Never once have you taken drugs? Never once. Never once. But I like alcohol. Yeah, so you like alcohol and you like drugs? It's like one step, then the next step. E allora ben ritrovato al nostro rabdomante di film, Alberto Brumana. Alberto, raccontaci il disperso salvato di oggi. Ciao Franco, oggi parliamo di Enter the Void, il film di Gaspard Noé, il regista francese che è conosciuto soprattutto per il suo film del 2002, Irreversible, che è un film famoso per quella scena di violenza nei confronti di Monica Bellucci. Lo stesso Noé ha definito quel film una sorta di rapina in banca per potersi finanziare questo nuovo progetto che è durato per diversi anni ed è stato presentato poi appunto tra il 2009 e il 2010. Noé ha sempre dichiarato di volersi ispirare niente poco di meno che a Stanley Kubrick, e questo film, ovviamente con le debite proporzioni, è un po' il suo 2001, ambientato però invece che nello spazio a Tokyo. È una sorta di melodramma psichedelico in cui il protagonista Oscar è uno spacciatore americano che vive a Tokyo e viene ucciso abbastanza immediatamente dalla polizia, ma continua anche da morto a sorvegliare la vita dell'amata sorella e di diversi altri personaggi tra le strade appunto di Tokyo. Tutto il film è girato a partire dalla soggettiva di Oscar, e più precisamente da tre tipi di soggettiva: una vera e propria fin quando lui è vivo, una dalle sue spalle durante i numerosi flashback e una onirica, completamente onirica, una volta che lui è morto. Il film, più che sulla storia che racconta, che comunque ha molti elementi in comune con la cultura buddista e presi dal libro tibetano dei morti, è prima di tutto un viaggio allucinato e allucinante e una sorta di incredibile esperienza visiva. E anche la scelta degli attori, che sono due modelli come Nathaniel Brown e Paz de la Huerta, dimostrano l'importanza dell'elemento estetico all'interno di questo film. Enter the Void ha fatto il giro dei principali festival del mondo, da Cannes a Toronto, dal Sundance al Sitges, ed è incredibile che si tratta di una coproduzione italiana, ma che è assolutamente inedita nel nostro paese, che invece è uscita in diversi stati anche europei. È comunque presente e acquistabile in rete un DVD internazionale che in diverse edizioni, tra cui un cofanetto che è assolutamente imperdibile per chi ha amato questo film. Sono in rete anche scaricabili sottotitoli in italiano che sono stati realizzati dagli amici di Italian Subs Addicted. Alberto, noi settimanalmente alla Rosa Purpura parliamo con te dei film appunto che non trovano distribuzione nelle sale nostrane, ma adesso i film dispersi hanno addirittura un loro festival itinerante. Sì Franco, abbiamo pensato di portare i film dispersi anche nei cinema italiani, cioè non solo di parlarne ma di farli anche vedere, e così è nato questo Dispersival, un festival dei film dispersi che sarà a Milano dal 9 al 13 febbraio, quindi questa settimana che sta per iniziare, e in cui mostreremo alcuni film che sono assolutamente inediti in Italia, film internazionali e film in italiano. Inizieremo mercoledì 9 con prima un'inaugurazione, con una tavola rotonda per parlare delle nuove forme di distribuzione al cinema in Italia, e poi inizieremo con Youth Revolt, che è un film, ti ricorderai, di cui abbiamo parlato poche settimane fa. E poi giorno per giorno, fino a domenica 13, proporremo tanti film internazionali come Dead Man's Shoes o My Name is Bruce, oppure tante piccole chicche italiane che sono rimaste fuori dalla distribuzione tradizionale, come ad esempio Sleepless o At Interra Pax. E quindi vi aspettiamo tutti al Cinema Gnomo di Milano, appunto dal 9 al 13 febbraio. E grazie Alberto Brumana. Appuntamento quindi per chi vuole vedere i film dispersi, almeno a Milano, poi speriamo che questa iniziativa abbia fortuna e possa girare un po' per l'Italia. Siamo alla seconda finestra sul DVD game, sul Blu-ray game per la precisione di oggi, una traccia che forse vi darà qualche indizio in più, sentiamo. Che cosa potrebbe essere? Non so, una sequenza significativa di numeri basata sulle tue esperienze con Maurice. Non abbiamo avuto molte esperienze significative insieme. E allora, avete capito? Esperienze, condivisione di esperienze con qualcuno, c'è anche un nome, la rosa purpurea, @radio24.it. Diteci di che film si tratta e più tardi, fra poco, avrete un'altra possibilità. Ed è il momento adesso di riabbracciare una collega, una presenza storica della Rosa Purpurea, con una rubrica a cui abbiamo dato un po' di vacanza per ritemprarsi. Parliamo di Trailer USA, la nostra rubrica che appunto vi dà in anteprima, fa un po' da vetrina alle novità del cinema americano attraverso i suoni originali dei primi trailer che escono quando i film americani sono pronti e quando sono ancora ben lungi dalla data di uscita dei nostri schermi. E allora, siamo con Michaela Bellisario e vi presentiamo una commedia leggera, una commedia per teenager, si potrebbe dire, in salsa però latinoamericana, che si intitola From Prada to Nada. Si tratta di un gioco di parole che presenta in sintesi il film Dal Prada al Niente di Tutto. E allora, a Michaela, la trama. Sì, ciao Franco. From Prada to Nada è la storia di due quindicenni ricche e viziate di Beverly Hills, Nora e Mary, che vivono solo di shopping, macchine lussuose e locali all'ultima moda. Fino al giorno in cui il padre muore e tutto cambia. In questo passo del trailer sentirete un dialogo tra una delle due sorelle con uno spasimante. Tell me about you. I love poetry and Prada. I don't wake up before 10 and no hablo español. Sorry, I thought you were my sister. Do I look like your sister? No, you're taller and on time. Alla morte del padre le due sorelle si ritrovano senza un dollaro perché in realtà da tempo era in bancarotta, ma appunto non lo sapevano. Le ragazze sono costrette così a trasferirsi da una zia Aurelia, sorella del padre, nei sobborghi di Los Angeles. In pratica tornano alle loro origini perché il padre era messicano e aveva fatto fortuna. Le due quindicenni si ritroveranno con le vite completamente rivoluzionate, ma scopriranno che Prada è nada, cioè niente in spagnolo, se mancano l'amore e la famiglia. Ora sentirete l'incontro con un cugino. Well. Survival skills. Ah. Don't steal anything. You think all Mexicans steal? I don't know. I'm not Mexican. With a poncho and huaraches, you can make a killing selling tamales. It's really funny. Insomma, questo è From Prada to Nada, novità americana, dunque una commedia, dicevamo, in salsa latinoamericana. Le protagoniste Camilla Bell e Alexa Vega, tra l'altro il marchio, noto marchio di moda, dopo Il Diavolo Veste Prada, torna nuovamente nel titolo di un film. Ovviamente il film questa volta non c'entra nulla, il regista Andy Garcia ha detto di essersi ispirato più a Sense and Sensibility di Jane Austen, insomma a ben altre e più alte matrici letterarie. Ciao Michaela! Ciao Franco! E allora a questo punto noi siamo quasi pronti a dare la situazione delle strade in diretta. Prima però diamo un'occhiata a quello che sta succedendo negli Stati Uniti per quanto riguarda il box office, perché in testa c'è un film horror. In America non è una novità questa, perché gli horror, quando non ci sono settimane nelle quali escono film particolarmente dirompenti in termini di grande produzione, l'horror è un genere che tira sempre, perché in America il cinema è ancora più una questione di teenager che non in Italia. Al secondo posto la commedia di Ivan Reitman, Amici, Amanti, e poi al terzo The Mechanic di Simon West, al quarto The Green Hornet, presente anche nelle sale italiane, al quinto posto, esattamente come in Italia, c'è Il Discorso del Re, The King's Speech. Scende al sesto posto Il Grinta, che sta per arrivare anche nei cinema italiani, il film dei fratelli Coen, che però ha incassato 150 milioni di dollari ed è forse, così vado a memoria, il più grosso blockbuster americano dei fratelli Coen, che forse non avevano mai incassato così tanto con un film, del resto con un cast così davvero il film va da solo, come si suol dire. Segnaliamo anche la buona performance all'ottavo posto del Cigno Nero, altro film, ricorderete, aperto il Festival di Venezia, che sta per arrivare in Italia nelle sale, di Darren Aronofsky, il film che ha incassato 90 milioni, insomma è una performance importante per questa pellicola. Quarta parte del nostro programma, come sempre, va a esplorare i palinsesti delle TV in chiaro, ecco, non stavo per dire satellitare, in realtà quelle in chiaro sono soprattutto, non solo, ma soprattutto del digitale terrestre, che ha aperto, insomma, una notevole mole di film, anche di grande qualità, di grande possibilità di recupero gratuitamente. Questa è la nostra, assolutamente la nostra precondizione. E chiediamo, come sempre, agli amici del settimanale Film TV di andare un po' a perlustrare questi palinsesti e tirarci fuori un paio di possibilità. Oggi due grandi maestri, due grandissimi maestri del cinema per la nostra rubrica, appunto, e siamo già in collegamento con Sara Sagrati. Ciao Sara. Ciao Franco, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Oggi dalla redazione di Film TV un consiglio da inizio e uno da fine. Anzi, ovviamente iniziamo dall'inizio, che è Sugarland Express su Rete 4 alle 16.30 di domenica. Inizio perché si tratta dell'esordio cinematografico di Steven Spielberg. Molti diranno, ma come? No, non è vero, c'era stato prima Duel. In realtà Duel era addirittura un TV movie, per cui questo è proprio l'esordio al cinema. Un bel pomeriggio di inseguimenti, grandi attori, macchine della polizia in fila sulle strade americane verso Sugarland, per quello Sugarland Express, assolutamente da non perdere, con una Goldie Hawn frizzantissima. Bene, allora questo è il primo consiglio, Sugarland Express, domenica 6 febbraio, Rete 4 alle 16.30. Questo quindi sarà l'inizio. E la fine? Sì Franco, prima si diceva anche una fine perché malignamente molti dicono che Match Point sia l'ultimo vero grande film di Woody Allen, anche se dopo c'è stato Anything Else e altri titoli che sono piaciuti come Basta che funzioni. In realtà Match Point è una fine perché chiude il cerchio con Crimini e misfatti, che è un film degli anni 80, e Match Point ne riprende i temi appunto della colpa e della pena. Match Point andrà in onda su Iris alle 21 mercoledì, agli spettatori la possibilità di verificare e confrontare due film e vedere cosa piace di più e se davvero è stata una fine per Woody Allen o magari no. O magari no, chi lo sa. Match Point, comunque potete vederlo o rivederlo mercoledì 9 febbraio su Iris Digitale Terrestre alle ore 21. Ciao Sara! Grazie Franco, grazie a tutti i tuoi ascoltatori e ci risentiamo alla prossima. E allora, questi consigli di Film TV per quanto riguarda i film in televisione nella prossima settimana. Terza e conclusiva traccia, beh, questa è la traccia che svela, però se qualcuno non ha ancora indovinato, voglio dire, io sono convinto che molti di voi lo avranno già fatto. Non abbiamo qui sotto mano subito i responsi che arrivano appunto nella nostra casella di posta elettronica, ma i nostri ascoltatori si sono dimostrati spesso molto molto preparati sin dalla prima traccia, che quasi sempre ai più è illeggibile. Però andiamo a sentire un po' la terza, sentiamo. Tranne qualcosa lasciato da qualcuno che sta condividendo il sogno e che ci è rimasto intrappolato prima. Quindi nel nostro caso, solo da te. E per quanto potremmo rimanere bloccati? Beh, qui ci sono due parole, due termini che sono illuminanti, li avete sentiti, sogno, intrappolato, la rosa purpura, @radio24.it, scriveteci per provare a vincere la copia del Blu-ray di questo film per gli ascoltatori del sabato e per quelli della domenica. E allora a questo punto noi andiamo avanti perché dobbiamo svelare i vincitori della scorsa settimana. La scorsa settimana avevamo giocato con un film che era un grande classico insieme, ma anche una novità. Ascoltiamo. Ero con Chris. Che cosa le hai fatto? Io non le ho fatto niente, è quello che sto cercando di dirti. Credimi, Nancy, sta succedendo qualcosa. Dimmi prima che cosa è successo a Chris. Qualcuno l'ha uccisa mentre dormiva. Un grande classico e anche una novità. Nightmare, A Nightmare on Elm Street, il film che ha rivoluzionato in un certo senso i cattivi dell'horror nella sua versione classica, che l'anno scorso tornò con un remake. I vincitori più bravi, più veloci del sabato e della domenica sono stati Simone Mantoni di Fano e Piero Dalbon di Cremona. Loro riceveranno appunto questo film. Noi abbiamo già in collegamento Claudio Pofi, che saluto. Ciao Claudio. Un film che esce e nella versione del classico e nella versione del nuovo. Sì, sicuramente. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Concordo pienamente. La pubblicazione da parte di Warner si è rivolta immediatamente per quanto riguarda il classicone degli anni 80, che poi è stato ripreso, rieditato, rivisto, se vogliamo anche in copia carbone, ma comunque un'opera interessante che è arrivata sia in DVD che in Blu-ray. Questo Nightmare, che viene così identificato come Nightmare 2010 da parte di Warner, ha questa qualità eccezionale per le immagini, fondamentale sicuramente per catturare la buia cinematografia. L'offerta audio come al solito è il Dolby Digital multicanale per l'italiano, ma c'è la DTS ad alta risoluzione in inglese. Tra gli extra segnalo su tutti per Nightmare 2010 le numerose scene omesse dal montaggio finale e soprattutto la visione del film immagine nell'immagine per scoprire i segreti dietro le quinte. E questo quindi per quanto riguarda Nightmare, il game della scorsa settimana, le recensioni invece di questa, cominciando con un Sylvester Stallone che raduna tutti i duri del grande schermo in un divertissement spara-spara, dove alla fine non si contano morti e feriti, pieno d'azione, che si intitola I Mercenari. Ti pagano quei vermi della CIA, vero? Io ti avrei dato il doppio per averti qui a non fare un cazzo. Se pensi che mi arrenda all'agenzia, sei fuori di testa, Barney. Perché dovrei farlo? Sono io la mente. Tutto questo sono io che l'ho reso possibile. E ora vogliono farmi fuori. E sai perché? Perché avevo capito il loro cambio di gioco. Sta fermo dove sei. Tu non vuoi ammetterlo, ma noi siamo uguali, Barney. I mercenari sono un gruppo di soldati di fortuna. Dopo il blitz su una nave cargo zeppa di terroristi che finisce peraltro in un massacro, questi soldati si godono una breve vacanza prima di tornare in azione per rovesciare il regime di un dittatore in Centro America che ha venduto il paese a un losco americano e a un remunerativo traffico di droga. Stallone, come dicevi tu, dirige e interpreta questo action esplosivo dal forte retrogusto anni Ottanta, ha chiamato a raccolta per l'occasione molte delle star di genere, tra cui Mickey Rourke, Jet Li, Jason Statham e Dolph Lundgren. L'uscita DVD, ma soprattutto Blu-ray per 01 Distribution, entrambi sono di ottima qualità, strepitoso Blu-ray con questa doppia traccia in italiano ad alta risoluzione, oltre all'inglese. Tra gli extra, su tutti segnalo queste interviste al regista e parte del cast, ma attenzione perché ci sono tre dietro le quinte con alcune sequenze distanti in cui Stallone è rimasto più volte ferito. E questo per quel che concerne i mercenari. Invece facciamo un grosso, grossissimo salto indietro nel tempo. 1949, un western non certo classico, però con un attore che è il classico del western, cioè John Wayne, e anche con una presenza che poi vi sveleremo. Si tratta del ritorno del kentuckiano. Sentiamo. Ho sentito bene, signore. Avete detto bottiglione di rum? Sì, il primo premio di pugilato è un bottiglione di Giamaica donato dal signor Randolph Black. Che bisogna fare per vincerlo? Deve essere messo knockout il campione Jacques. Se qualcuno di lor signori desidera provare, si faccia avanti. Dopo la sconfitta a Waterloo nel 1818, ufficiali e famiglie francesi fedeli a Napoleone sono esiliati in America e ricominciano una vita come agricoltori in Alabama. Il locale cacciatore John Breen, innamorato di una donna promessa a un uomo che non ama, cercherà di sventare un piano di speculazione ai danni dei terreni francesi. Film del 49, come ricordavi giustamente tu, Franco, western inedito su DVD con John Wayne, ma nel cast, come abbiamo sentito nell'estratto, faceva parte anche Oliver Hardy, l'olio della coppia comica, come sempre doppiato dal mitico Alberto Sordi. Qualità del DVD di Koch Media dignitosa, c'è questa doppia traccia in italiano e in inglese, non sono presenti extra. Alberto Sordi grande, anche se in questo caso un po' fuori contesto, perché forse il personaggio di Oliver Hardy in questo caso era un po' un'altra cosa. Grazie a Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni non video. A presto, un saluto. Siamo arrivati in fondo alla Rosa Purpura di questa settimana, prima però un saluto, un commiato. Aveva lavorato con Comencini in Cerca Gesù, aveva lavorato con Zeffirelli in Geneire, aveva lavorato con Antonioni in Professione Reporter, ma noi la ricordiamo avvinghiata Marlon Brando contro un muro di una casa parigina in Ultimo Tango a Parigi, e se n'è andata Maria Schneider, ancora giovane, malata. E abbiamo perso un'attrice che forse non ha avuto una carriera fulminante, ma è stata sicuramente una delle icone più persistenti nella memoria collettiva cinematografica. Tutto qua per quanto riguarda la Rosa Purpurea. Appuntamento la prossima settimana alle ore 18 del sabato, alle ore 15 della domenica, e varie repliche notturne che so essere molto molto seguite. Un saluto da Franco D'Assisi.